riuscirà a buscarsi, però lo passa. E va bene, non c'è problema, ciao a tutti, dai, ci sentiamo. Chiudiamolo lì, se no caccia, io da voi qua di peggio, chi si deve dire una cosa da qua. Ripresa Antonella. Se qualcuno che non sta uscendo va poco fa che sta facendo un altro microfono, a quanto sto seguendo io da qua, e comunque provate a chiamarlo, magari vuole entrare e non esce di radio. Che se mette la portata a Claudio, Claudio passa tranquillo, io lo sento bene. No, ma è qualcuno che non sta uscendo di bordi di radio. Dici, tu, e come mai lo metto quando parli tu? Sì, vabbè, evidentemente non sa cosa fare. A te lei, voglio vedere tu con la tua direttiva, che te è bizzore. Io sono filare in culo, non lo mai per tutto, già fanno anche scittoria. Ciao a tutti, ciao. Già sono in radio io, almeno non ce ne sono tanti. Ehi, grazie, grazie, vai. Anche a te non è vera. Preghiamoci. Ma che ci devo cominciare così allora, lo vado a buccia, lo vado, va. Ma se me lo fa, potete che gli va a staccare qua. Ma solo, dimmi, dimmi. Cazzo, via, non c'è più macchina, aspetta. Sono qua, sono qua. Ma senti qua. E già la sento, sì. Però adesso il rumore fa diverso, che ho male. Va bene, dai, io ho chiuso, dai, se no magari a voi ti fate sulla tappuccia, per cui ne approfitto, dai, grazie, grazie della chiacchierata, ciao, grazie, saluto a casa, saluto a Torello, buon provvedimento di serata, ciao Claudio, buon provvedimento anche a te, io ho chiuso, dai, se non vuoi che ti ha ragione, ok, vai, ascolto per il finale, chiuso, dai. Ciao Giovanni, ci sentiamo, buon pomeriggio. Ciao Gian Maria, alla prossima. Va bene, io rimango l'ascolto. Che sto facendo cosa? Al limite pure rientro. D'accordo. Cosa fai la grazia? Chi sta portando? Scusi. Grazie. Allora, magnoradio.com, adesso mi accendo il computer e sbircio. Dai, grazie a lei. Dalla cura, voi il forgente, i sabati, il forgente, ci provo tutto quello che vuoi. Ciao, rimango in quarrici, dai. Adesso non lo sguardo, che ce l'ha acceso. Vabbè, faccio il tri, faccio il tri. Chi è che mi stava chiamando? Perché con le scuse, ma è male. non è, almeno a me non va bene, può darsi pure che c'è l'apparecchio mio che ricevo male. Già non c'è niente l'apparecchio tuo, sto provando il microfono, aspetta un attimino. Ciao Mari. Ehi, aspetta che c'è coso. Così ho potuto provare un microfono. Ehi, stavo provando il microfono. Adesso la pure scanto. Giù, adesso non ne esco più. Fai il passaggio lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La ecco il passo. Aspetta un attimino. Devo regolare un attimo la ripetizione. Aspetta. Ora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Adesso va meglio, là. Aspetta, diminuisco la ripetizione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Vabbè, perché fa così questo? Ho diventato sincepola. Hai scelto male, adesso mi stai innescando, Ehi, già me ne sono accorto. Mi sta innescando. Adesso non innesca più. Adesso va bene. Adesso fa tutto brodo. Però grazie a... Agli rapporti tu, Alessio. Ehi, è già andato. Ehi, l'ho guardato mio computer. E quando mi parlato con 180 euro, c'è anche lo schermo. Sui 10 metri, prova a guardare sui 10 metri. E poi vai sull'altro numero e dunque. Quelli da base cerca. Vedi, sono tutti gli apparecchi legati, no? Ecco, guarda su quelli da base che vedi, dopo ti dico quello dell'antenna, vai. Ehi, adesso sta facendo cosa? Ha guardato un minuto a vedere e ne ho visto un po', adesso mi ha ripresi, ha la faccia. Fatti stampare con un po' di pagine così ti riguardi con come sta siete travagliate, capito? Tieni per le cose al computer, ti fai stampare un po' di pagine, ma c'è tutto, trovi in quella parte. Si forno gli egimeni, vedono un bel di cose interessanti, più o meno, vai. No, la stampante qua non ce l'ha, se l'ha portata a aggiustare. Già c'è la mia figlia, quella che è in campagna. Ehi, ok. Va bene. Ma se brucia bene, lascia più di una manina. Ah, Tore, a posto l'hai messo sul microfono, sì? Penso di sì. Adesso dovrebbe andare bene, guarda un po'. Ah, va bene, adesso è un buon modo, dai. Mi pare che troppo l'ozio, va, o no, grazie. Prova, Antone. Allora, ti faccio una prova. Questo è un baracchino con un'antenna, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E questo è l'altro baracchino con l'altra antenna, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, che è vedato. Esci bene, sia con uno che con l'altro, comunque con il secondo ti sento più forte. È bellogico. Noi questi giornali, io lo sento bene. Ehi, ho aumentato la prima, la seconda, il passaggio, tutta un'altra cosa, vai. Che è più, da un altro per la grossa differenza, di il vino, Antonio. Sono anche liscio, non è un lineare. Se avessi avuto lineare, il lineare sarebbe stato una cosa diversa, solo che non è attacco. Una cosa è lunga, perché non mi aiuterà di farmi. Di spendere sul lineare l'antenna. Lo sai che è più più di 500 watt questa non esiste. Non attacchi urinali, non attacchi urinali, riuscite con la potenza sua che va bene ugualmente. L'urinale si può attaccare al grande capitello e si fa un collegamento, boh! Non come certi si mettono a fare QSO locale, attacchi urinali, boh! Vabbè, ognuno fa quello che piace, che piace, sai? Bisogna anche accettare anche il fine lì. Vai a te! È positivo, no, io non ne uso quindi, non me ne frega niente, sai, l'ho avuto, se ci sono fatto, mi tirava fuori e si è pompato, però tutti quanti si lamentavano, tu mi sei spazzerato, non trovo qua, allora hanno regalato quando la metto a casa, cosa le facevo, questa zia brutta. Ma io conosco una persona che non c'è più, non c'è più, e a tanti di quegli agenti, ma no, no, non mi interessano, non mi interessano. L'ho qua sassa, vediamoci in un paese, e vicino a sassa di più. Però non mi interessano, oh, assolutamente. Non mi sono mai interessati per cui. Meglio così, dai, inutile, pensavo, magari, però magari devi fare un collegamento, vabbè, una volta si può anche accendere, per cui non rompere il cazzo, però, non mi va, a me non mi va, magari a te piace, oppure l'altro, però a me non mi va, mi piace uscire normale, se arrivo, arrivo, se lo patente. Ho da prima me, molti anni fa, insomma, all'inizio io pure ero accanito, però mi è passato pure la gara di accendere un anch'io, una potenziativa normale, ti puoi immaginare, per cui non vale la pena, va. Non vale la pena, vale grazie. Bravo, minoretto, mi sembra la proprio indotto a coso, che c'era da Claro Rosso, non mi ricordo, alla Capri 2 mi pare, e io, mi sembra la proprio da salute per il camper. Ma io ne avevo ultimamente, ne avevo uno, me l'hanno regalato, me l'avevano regalato la buona di Mario, perché non l'ho mai usato. Ho una persona, l'ho dato a usarlo, perché io l'avevo sempre buttato a parte, tu usalo, però quando mi serve me lo dai, e ancora devo capire, mi pare che un paio d'anni più e ancora cammino, ma speriamo che riesca a averlo, se non si era venduto, speriamo che si sia venduto, che mi ha detto da poco che moria. E quindi l'ha ripulito, ma mi pare un poco strano, speriamo che non se l'abbia venduto, anche se no mi arrabbia davvero questa cosa, non che mi interessa questa cosa, ma usarlo no, no, anche per l'azione, capito? Ma almeno usato là. Non lo so se l'ha usato, non lo so, non lo so, io l'ho prestato per usarlo, che a me non mi sono mai piaciuto e non mi piaceranno mai, però se io te lo do, dico me lo dai quando lo voglio, e se tu non me lo dai mi dispiace o no? Vabbè, tu gliel'hai prestato, non è che me l'hai regalato, e ciamba la cosa, non è così alto. Gian Guido, io ho dato un macchino, una KB23, sono passati già 6 anni che sono ancora a vederlo. Tanto lo stato operando. No, sta piantando, no. Già sta piantando, già di usi. Non l'ho più visto neanche a lui, figurati. Adesso uno di questi giorni ci passo e glielo chiedo se c'è la cosa, me lo ritiro e me lo vendo, intanto non le faccio niente, non mettete a canali, ritiro, se la piglia in culo. A me questi 3 canali non mi piace, a me mi piace che visiano i canali, così che io pure così non ne comprendo nulla di chi si russi, tedeschi, però mi piace ascoltarli. E un bel libro che lo mangiano, quello che ho a 40 canali di noi, spatto e li sento chiare chiare e me li ascolto. Ehi, va bene, Grazie. Teresa, ne ho uno io che ho cercato di cavalli, cacchio le mande, per cui se ti dovessi interessare me lo dici, ce l'ho lì, buttate il bagaglio. Grazie, aggiustiamo se è possibile. Mi lo fai vedere, fino a poi non si ci fura di risveglio, bisogna vedere. Questo c'è un bel dolce, tutti questi canali non per mai cosa ne fai questi canali, che quando attaccare vedi sul troppo vedi un bel e a voglia, ma fai gli arrivi a 45, ma la vuoi il 45 cosa fai, cosa fai, niente, capito, per cui basta 40-45 canali, sei a posto, dai, tranquillo, almeno tra voi, ognuno a vedere a modo suo, vai. Questo qua lo metto anche in FM, ne sento parecchi, mi non ricomprendo, però mi piace accuscarli, magari se c'è qualche parola pure che riesce a grapparla. E io faccio un attimo di questa diretta, io mi riprendo dopo. D'accordo, altre, va bene, vai pure. Va bene. Ma FM c'hanno quasi tutti oggi gli apparecchi, capito? Questo c'ha AM, c'ha l'FM, c'ha USB, c'ha RCB, c'ha CW, c'ha tutto, c'ha tutto. C'ha tutto, capito? Per cui basta vederlo, lo puoi anche provare se lo vuoi. E la casa lo porti via, te lo provi, se va, lo va, se ti piace, se ti fa, capito? No, poi eventualmente ne parleremo per il prezzo, capito? Non è nato, non faccio niente. Ma bene la cucina, ma così no. Ciao, bravo, buonasera. Buonasera, se non va la cucina non andava però, Certo. Ma veramente non capisco niente. Ciao, Graziano. E Giorgio Maria, ve l'ascoltate. Dio, che bel tratto, fra. Graziano, di te, Saprecchio, con un mucchio di canale. Ma cosa ne pare che oggi, i veicoli attaccati, non c'è nessuno. Casa, fai un bel canale, o no, fra? Diciamo che se una volta te lo ascolto va bene anche... che appunto anche i canali più alti, quello già è vero, già ce n'è gente in altri canali, però se dovrei fare un HF per fare quello, un ricevitore. Io questo che c'ho, Linoiti, Capra, c'ha 80 canali, 47 e 40 sopra, e io lo metto in quei canali alti, arrivano fino a 80. Metto anche le FM molte mattine e me le ascolto parlando, sembrano seduti qua. Sì, questo periodo, adesso comincia l'estate, la propagazione, ne senti di belle le cose del crude nel cinema. Anche nei canali bassi. Te le ricordi prima i telefonini? Aveva provato una di in campagna, va via un Motorola, va via, e prima che erano usciti. Ci aveva messo la offerta di carta spagnola delle sigarette. Grazie, mi ascoltavo tutte le telefonate continentali. Ma l'ascoltavo, senti qui solo, E quelli erano i primi telefoni realizzati. Le cabine telefoniche le chiamo io, quelle lì. Ok, dai. Ma ascolta, ogni tanto sono per salutare perché sto facendo cosa? Sto saldando delle cose. E vi ascolto, vai. Ciao, fra, ci sentiamo, complimento, buone faccende. Vai, grazie. Ok, Franco, buon ascolto. Hai capito, Giammari, quando sono usciti i primi telefonici, tra poco. Una lì in campagna di cui su un pezzo di carta spagnola a Trento, no, un'era la batteria, scatto ricevevo tutte queste telefonate, ma continui, mi non smettevano mai, mullava una, venne entrava un'altra e me la puzzava. Le apparecchiature, c'è la carona, ci sono gli HF che prendono anche tutti i tribunali, capito? Ma sono oltre 30 MHz, capito? Sono gli apparecchi oltre che fare oltre 30 MHz, ci sono tutte le telefonate, capito? Non è anche bello di ascoltare certe cose, capito? Perché solo non va bene, non va bene, capito? Lo so, ma è infatti c'è nel blu verde. Di che cosa è questa cosa? La gente di crudi di tutti i colori, la gente, brienni, innamorenni, è cose che non ha gente. Passare qua piedi però prendi troppo via a casa, se ti va, se non ti va, capito, grazie a quello c'è un cugino, c'è a cazzo di canali, c'era parecchio, quello arriva anche a 6.000 all'inizio, capito? Qua adesso sei in casa, ma vicino alla targhetta. E lo provo a vedere. Però mi piace accusare, sai. Specialmente parliare di telefonate porno secchi, di certe telefonate. Cazzo di blu, ma chi ti manca questo? Posso immaginare, posso sentire tutte le maniere, capito? E per cui non è anche bello, è la bua. Io sento due o tre, però non fanno schifo come faccio certe telefonate, per cui non ho assolutamente, non mi abbia abituato, ma ci sono quelli che piacciono ascoltarle, capito? Muy bene, muy bene. D'accordo, grazie. Mandava grazie e avvitami a temo per un appoggio che s'attenda e da voi provincia parecchio, se ti piace ti attarraggiamo, capito, grazie. Ciao, un bel canale, poi c'è anche le bande, capito? C'è anche le bande per cui e a voi a canali, voi magari dai, me ne so bene. Cosa le faccio? Non le faccio niente io, per cui lo do e basta, capito? L'antenna però bisogna mettere a posto, grazie. Appena fate bene un tempo, già ti do con la mano io, non ho visto problemi, capito? Te la vogliamo a posto, ok? Appena c'è tanta che aveva prima metà di stati fini mesi, dagli anni serve la campagna. Speriamo che cominciano i ripetiti. Ma che me ne è rimasta appena più di meno della metà, cazzo, ma è un bel accia. Piano piano della vaina si è alle frasi un po' bello. Dice domani non faceva, per cui poi pure farà domani un pezzo, gli fai un pezzo magari va a salì, non era di pigliare tutti in una riva, così si ammazza. Capito? Allora non finisci che c'hai il tempo. Mi chiami. Ah, io gli ho mai piacevo, poi mi appoggio la tele, faremo e abbiamo tempo. Ho visto problemi. No, ma che ammazziamo l'ora, se no ti piglierà un dormitorio di piglia, grazie. No, prima però di piacere l'antenna, mi compro quelle staffe come quelle che ho comprato per campagna e me le muro quelle lì. Più bacio, attivi, da gruppo, ma c'è ogni volta devi fare qualche cosa, fatemi pure due, tre tassoni, chi vi ha piccato dalla cava, ed è un casino. Invece mettendo la, nello stesso punto l'ho preso, però ho leggermente più giù, dove arrivi con le mani. Anda più bene, senza stare nella cava niente, l'estate ci metto quel tubo che c'è in campagna che me ne aiuta a fare, me lo segno in campagna e me ne la tutti quel tubo in luce. Con quello lì a voi la raggiungo l'altezza che c'è adesso, che c'è adesso l'antenna, solo facendo più giù, più in basso, loro sono sempre però più giù, non va a passare a chi attacca l'antenna, ma è solo una staffa e non mi piace né manco, io mi voglio mettere come quello che ho messo in campagna, sono a un e rubare vitrini al centro, capito? Ma io ho visto, ci sono africani, ci sono tutte le misure. Lì quando metti due sappe passano. E c'era davvero, ma come ho fatto la murale di compare Gabino, è facilissimo, la puoi fare anche da solo, puoi fare il lavoro. Grazie a queste due gaffe. Un pezzo di tubo innocente, un pezzo e ci metti un borsetto di quelli girevoli. È un borsetto su ci metti, due borsetti male. Un borsetto giù, bloccato, ecco tu lo leghi, ecco una cordicella, te lo porti, te la passi, te la alzi, con un pezzo di corda a me, te la passi, te la apri, e dopo te la puoi attaccare tutti i mani di piatti, voi la testa, hai capito? È facilissimo a fare, oppure fai come a te ti sembra che sia giusto di fare, hai capito? No, è un problema. Ci sono i via d'Africa, ma li ho visti, infatti se io te la butto non l'appoggio come ce l'hai tu, avrei fatto quel lavoro perché anche da solo si può fare un lavoro di genere. Per cui è facilissimo, capito? Oppure lo fai come vuoi fare tu e va bene a me. Ah, costa un poco, cosa la cazzata, quelle staffe. E te li muri e sei tranquillo, boh. Ehi, anche in campagna non aggiungo più una U e una dritta, sono da 5 mm spesso, ho messo quella U sopra e quella dritta sotto, ho aggiunto tre buchi e la aggiunto una dita per tre dita, ho l'antenna. Ma ne puoi me la mattina di la distrinta, poi ho messo gli isolatori tutto sotto il cornicione delle tegole, ho bucato e c'è entrato il filo dentro. Solo di chi ci rubire chi tu minore, quello fine. Allora, dici, come quando va a vedere la campagna? Vieni qua, figlio, te lo regalo io quello grosso, che nasce un be di cavo grosso, per cui è buono pure. Il figlio te lo regalo io, capito? E non fai problemi, grazie a. Compra le staffe, vedrai che il figlio io te lo regalo, va. Ehi, va, appena andava a Bricomen, tanto mi ha voluto i macchetti che hai detto tu. 4 o 5 venivo là, che ne dico pure che sul radiale che fai, o c'è meno droga lì. Ha detto tanta va, e fa di pure tempo verde, che fa Luisa Di Mario, o la banana, e non va là, e mi ha detto lascia lì, una di fase verda lì, me la faremo, e l'antenna me la piglio io, e eventualmente, ti dovevo pure un'antenna, o ti pigli l'altra, o vado pure a manto fa uno io, che non va nuovo a stessi. E dopo lupo un mese ci ha da trattare in Santenna, ma uno l'altro di dopo, capito? Per cui non vi sono problemi. Allora piglio un poco, quando le fanno Luisa Di Mario, che riusciamo a far andare in data, capito? Oh, è nuova in Santenna, però se riusciamo a far andare in data, una dei due ha tirato dopo, capito? Prima io voglio frappicarmi se sta sono zigzagate anche in campagna, non sono così, e sono spesse 5 mm di non di più punto. Sopra dei bizanti mica hanno la giumigliata, ha giù fatto un buco, l'ho messo in direzione al centro, l'altra sotto, l'altra è dritta sotto, però l'ho messa sotto, devo venire alle macchine sotto, ma tanto la recuperata per essere giù buttato, ma sì. E non bisogna manco tirarsi in campagna, non venuta, non è in alto, io salgo sulla sedia e posso mollare il bullone e la posso abbassare, capito, non è che sia neanche in alto. Come te fino a me, capito? Insomma, che andi a me, che non ci siano i problemi, ma tu già c'è la cabina assessore per cui e puoi fare bene. Passano due, tre, come ne vuoi dire? Passano due di staffe. Quando sono frammicati me, cazzo, c'è tranquillo quello andare lungo. Oh, mica se ne attendo su qua un via all'aria, no? Grazie. Che ha tutto la buona, pure appena ti lascia di chissà, non fredde ci sono due ciappi buoni. La buona, una la buona quasi all'estremità della tromba e lascia sotto. E non la tocca più. A voi se ne vuoi tre, ne vuoi tre, però passa di due. Comunque, dai rivedere i ciappi come ti sono capito, la giubicchia lascia lì. Visto che sia ammolatura, ci sono chi sia a testa di chimico, eccetera, eccetera, di tanti tipi che li so, capito? E la giudici, e per cui viso pure i dubbi a cannocchiare, però tu vai il dubbio innocente, è meglio che si ponga i dubbi innocenti, che sono più resistenti e non si pigiano mai, perché chi sia a cannocchiare, o prima o poi si vuole pure pigiare, capito? Per cui... di sappi prima, ti riprendi che è buona di un periodo, non fai altre cose, la manca asciutta lì e ci secca un po'. Ehi, quella che ho messo in campagna, una l'avevo presa, l'avevo di 10 centimetri, e l'altra è una bandiera solo, capito? Ed infatti ne bisogno due a uno, posso quattro mucche e non andare a lungo. Hai capito come? Ehi, ha visto anche quelli, ci sono quelli anche a uno, infatti, mi sono pure visti, capito? Mi sono pure accettite, capito? Ah, vedete, tante piante si pigli, ecco c'è una castata, capito? Senso che sto frammicati, capito? La buona riuscita al gruppo, e dove andrà? Oh, via, si muovi domani. Oh, chi si bisogna campagna, mi sono capiccato, buio. Oh, già rimuovi il pane, già. La di piazzati, faccio sta subito. Ho preso il sacchetto di cemento rapido, l'ho mischiato con un po' di sabbia, due tre abbuccate, la di cuccio veloce, anche la di fatto a poco, no? Poi la di cuccio pezzo di fredda. Dammi la di fatto a poco, o anche maggio di cocca, anche se non si secca subito. Vai a tirarmi giù, abbuccanini devi incazzare tutti in giro a un ratto, anche non ne rubochimi. Infatti il cemento rapido, oggi mi ha detto due sacchetti che avevamo fatto l'impianto paracusina del caso a chi ha la bomba la sta giù fuori e non si è giubilato un cemento rapido e infatti cazzo sono fai impresso si secca di reggere un buco cazzo bisogna fare impresso in faccia per applicare e fai muovere va e muovere la cosa ti annessi domani poi si cerca domani. E l'ha giusato un poco, vedete che aveva pigliato due sacchetti. E l'ha giusato un sacco e mezzo solo, mi ha un sacchetto e mezzo, ma sono dati i cucchini, capito? Uno è in tre dei cucchini, e l'altro è a metà. E mi ha giugato, capito? Per cui, se ti sei un po' di cemento, in questo caso non importa niente. Ah, non lo so, ma mi sembra che ce l'ho anche in garage. Quel cemento lì nello scaffale devo guardarci e anche io posso un poco di impasto normale, no, e la gazzarella normale, sabbia e cemento. Sapete cosa posso? Posso due o tre parecchi di ghisi, se mi c'è un poco di ghisi, così mi dà zero tempo, compreso. E mi sono chiuso, però l'aggiungo ghisi rapido, no, ho due o tre parecchi, pure sono chiuso subito. Se no, non ti lascio il tempo di travagliarlo, hai capito? Allora io faccio così, ho sempre fatto così, anche perché ho fatto i portoncini blindati. Così ti dà il tempo di adoperarlo, però sempre due o tre palette, non di più, compri. Se no si secca e non funziona più. Ehi, già l'ho visto, di affari freddi infatti. Io no, quando abbiamo piazzato il portone qua, abbiamo fatto la roba chimica, capito? Abbiamo fatto il buco, l'abbiamo riempito di roba chimica e si è infilato la trappina filettata, hai capito? Si è asciuttato subito, perché si è asciutta subito pure questa cosa. E vai muovendo tu. Già lo so che li ho piazzati in un palazzo, sì, li ho piazzato a Porto Torres, all'entrata di Porto Torres, al villaggio dell'Agipi, il primo villaggio che trovi nella rotatoria a sinistra, lì ci sono, ci abitano dipendenti dell'Agipi. E lì ho piazzato sì quel palazzo marrone, non so cos'è ancora marrone, i portoncini, perché quel palazzo lì è tutto quanto a pannelli di calcio struzza in calcio, tu qua bucavi, voglio saltare, allora con il tassellatore ha fatto i buchi e li abbiamo piazzati con i tasselli chimici, però io magari ho aggiunto 4. Ma infatti, e noi l'abbiamo piazzato in un manzano, capito? Magari non sono uscite perfette, ma chi uno era piccia pugliato nell'altro, non era nel mestiere, però l'abbiamo piazzato ugualmente. Lo devi raccontare pure qualche trafila che parli tutto, ma allora è uscito un po' leggermente, non mi piace come ti piazzato, però anche qui un sacco, a me, da me, però è via con sale, però la valla si è uscita da voi, il cammino a contare guarda, e questa cosa va in presa, grazie, va in presa, per cui però se tu la palantena vuoi piazzare un cemento davvero ma stessi, capito? Sennò anche col chimico andavano a te, se fai meglio con il cemento, vai, che si sa più se è meglio con il cemento. Vabbè, no, in casa io qua, lo portoncino vero, alla parte per il calcio estruso, anche per la cabina dell'ascensore, vero muro, no? Ed è tutto calcio estruso. Allora la parte era la parte dell'interruttore della luce, e chi da stamattina fa la camera là. A fare i buchi, cazzo, dai da basso, un calcio in susso, cannare da minicida, bruva raggia uso. Però ho scattato tutto in giro e c'erano entrato le asole tra il ferro e mezzo al calcio in susso, capito? Hanno i buchi di umani. E poi l'ho fabbricato normale, e poi non so mai mi ha già piccato lo bucciale, ma è muovilo. Oh, già fa il prezzo anche al castello chimico. Ma noi pure abbiamo avuto lo bilancio che ci ha in mano, lo ferro pure abbiamo avuto. Ecco magari perché l'abbiamo spostato leggermente e invece no, andava a buco, magari andava a fare un buco magari a fianco e leggermente piegarono la barra filettata e andava più ben puro. Invece noi l'avevamo usciato appena. E il buco è scelto più dritto, allora il buccare è rimasto leggermente non preciso, capito? Andava per mettere, mi sono detto, tranquillo. per cui infatti non devi accontare, devi accontare a sempre usare il fattore ad uno più perfetto, capito? E però vabbè, ma sa te che non era più per niente, così che mai si vede, ma non faccio così. Perché? Registrato il vecchio. Mio, io devo piazzare uno, ma non l'ha visto un anno che fa se pensate che l'ha giocata, gli altri piazzi. Aspetta, parte il break. Ok. Ciao Graziano, ciao Giomani, buonasera a tutti e due, come va? Ma non è che sono affreddato per caso. E da un bel tempo non ti intendo, non ti sento, come mai? Cosa è successo? Io ma io sto facendo cosa? Dunque, durante il giorno sto facendo dei lavori qua a casa, eccetera. Sì che è meglio guardare la maglia e la buona maracchino, e vinciamo il secondo tempo, ci mancherebbe altro. Ma adesso già fa un po' già ho terminato, dunque mi ripresenterò alla grande di nuovo. No, ma che cosa la voce? Non succede bene. Ma strano, sulla finale come stai parlando, c'è una specie di una cosa del genere. Prova a fare un passaggio giù. Ah, forse perché sto usando un altro microfono, sarà per quello. Non lo so. 1, 2, 3, prova, attenzione Giovanni, e come va questa radio, vai. Ehi, da c'è, ma poco a poco, non si risumba comunque, quasi, ma se lo proprio ci metti l'orecchio proprio in quel pezzo, si sente. Bene, grazie. Ma Giulio, buonasera, già giudizio, Giulio è sparito, ora le questo caccarruccio a capo, non si intende più? Ma secondo me c'ha la voce così Giulio, Giomani, a chi si non ti senti, o sbaglio? No, cosa mi senti, forse l'ecco, mia vai davanti al municipio, metti un fuoco, avanti un cavo di tutto, ecco, adesso è senza l'ecco, sarà il microfono, sto usando l'M300, capito? La stai uscendo bene, vai Giomani che già c'è Nivea, va. No, io c'è poco, c'è, però non ti nemmeno se no ce lo stai proprio appunto, hai capito? Per cui lascia va bene ugualmente, è giù. Ah, ok, per quello allora sei da parata, beh, prima è dovere, dopo è piacere, che se ci mancherebbe altro, è duro, che fa, io sono fatto così, se sono, quando c'è fare in campagna giù, se io fare in campagna, poi non fa pagare che cosa, ma se mi attacco un baracchino, ma che fai a fare cosa? Infatti, va bene, riso. Cosa vuoi che ti dica? Vai, Roby, se vuoi dire che modifica e dopo i gandufini già rientrano, non è un problema. Lo so, prima bisogna sistemare bene qua, poi alla fine ci penseremo per il coso, come si dice, per il baracchino. Non lo so se sto uscendo come sempre Giovanni, però forse la batteria è un po' scarica qua, boh. O forse lì, aspetta, ecco adesso ho aumentato appena, questo è il microfono con l'eco, forse devo usarlo così o allontanarlo dalla bocca, boh, dimmelo tu, non lo so come, sto usando il presidente Washington con l'M300, capito? Metti la portante senza parlare. Ecco. C'è un fruscio c'è? Un innesco c'è, una cosa del genere. Ah, ho capito, vabbè, vuol dire, questione di collegamento saranno, io magari, non lo so, lo vedremo più là. Vabbè, dai, se da fastidio cambio microfono, aspetta, mi sono guidato bene, la mia la grande, proprio in un attimo, ci vuole un secondo. Però quando a portarti multa si sente parecchio. Sì, tu c'hai quell'adattatore con tutti per un microfono vale per tutti i baracchini, no? E avevo fatto, adesso ho cambiato il microfono, avevo fatto gli adattatori, cioè, dunque tutti i microfoni li posso mettere in tutti i baracchini, niente di particolare, capito? Questo è sicuramente migliore, non lo so. È tutta un'altra cosa, più pulita, più pulita la radio, più incisiva, capito? Più perfetta la radio. Vai, grazie. Non fermo, adesso sei proprio tu, più chiaro, più bello e più squillante. Magari cosa hai fatto le collezioni a quell'altro, magari non hai esagerato di me. No, può darsi che il 95 non abbia provato niente. Gli ho fatto lo spessore, gli ho fatto, perché per realtà, no? Perché questo in realtà era di un altro baracchino ancora, era M300, e adesso l'ho voluto sistemare per qua, l'ho voluto sistemare, ma evidentemente c'è un qualcosa che non va bene, qualche filo che vuole sforzare, capito? Pagava, no, ma adesso sei pulito, magari te lo riprendi con calma, quello là lo fai più bene. O forse prova a cambiare la batteria, o forse brucia la batteria. Infatti è quello che stavo pensando, perché questa batteria ci sarà 3 anni, forse di più puro. E siccome è un microfono che non uso mai, però la batteria se sa, col tempo si scarica, no? E dunque è probabile che sia scarica la batteria poco, anche perché quando schiaccio la lucetta che accende è bassa, dunque probabilmente la batteria anche, non lo so, grazie. No, adesso sto usando la Delta. Ma batteria se nei microfoni se non la duplici, non le lasciare come nei telecomandi se c'è una cosa che la duplici ogni tanto, non le devi lasciare perché la batteria trasuda ti fa ossidare sia il microfono, i telecomandi, capito? No, queste batterie sono ricaricabili, grazie, quelle normali che creano, si spaccano e creano, tolgono la cosa, come si dice, l'elettrolita, e allora si arrugginisce il contatto, eccetera. No, ma le batterie che si ricaricano, no, quelle è tutto rosso, quelle o non funzionano o non si guastano mai, capito? Perché quelli ricarichi e l'elettrolita non viene mai fuori, no, assolutamente, capito? E ce l'ho anche io con le batterie ricaricabili, anche adesso questo che sto usando è ricaricabile, però questo non lo sapevo. Però io quando ho gli altri microfoni da parte, no? Tipo questo che sto usando, però li lascio senza le batterie, non le metto, gliela levo, di non usato. Vabbè, quello sì, comunque la batteria anche se non la usi, se la conservi nel cassetto, si scarica lo stesso col tempo, non ti credere che rimane carica, no? Ma come a sogno, poi io ho il caricatore, lo metto sotto carica e via, capito? E dunque rimedio tutto, capito? Pacca, già lo so che si esauriscono anche senza usarle, una volta ti ho messo un pacchetto, cioè male, con una batteria non funzionava, ce l'avevo un sacco di tempo, quelle quattro filo, e si sono caricate la giura, ed erano chiuse, riprendi Giammarco. Ma bisogna, anche queste batterie, se sono quelle buone, quelle riuscite, quelle no, è inutile, io in campagna, col codice 3006, ce l'ho, lo dico poco, 3 anni la batteria, costa €1,50 quell'anno per volto, con l'M600, non l'ho tolta mai, 3 anni. Allora, quest'anno non l'ho usato, l'altro giorno, anche l'ho acceso, l'ho provato, costare già un anno intero che non l'ho toccato per niente. Da quando mi è successo un incidente, fino all'altro giorno non l'ho toccato mai. Lo attacco, la batteria era buona, si accende, la spia, provo e va benissimo. Poi c'era un 2,5 o 3 anni c'è, e non si è scaricata mai, senza attaccata, nell'M600. Sta funzionando sempre, adesso ho quelle batterie che non si carica, è da buttare, è buona, mentre che qua infatti ho più di un anno sull'MBU più 5 e poi se questo si andrà adesso, cerchi di trovare una batteria mai scaricata, sempre la stessa batteria, ti puoi immaginare, certe cose dipende anche dal microfono che c'ha qualche pezzo e scarica la batteria completamente, come si è detto una volta la buona di Mario, il tunnel più 3 da tavolo, come quello che ho fatto io giù a te, e gli scaricava la batteria, dice sempre, la mette in voce, domani la scarica, l'ho aperto, l'ho pulito bene, ho rifatto le saldature, poi lo sai che non si scaricano mai, non scarico più quella batteria, e adesso ce l'ho ancora, l'altro giorno l'ho provato giù in magazzino, perché c'è un magazzino con microfono, ho visto che ancora funziona, vuol dire che sta funzionando bene, fai cerca queste batterie. Ne ho preso altri 4 o 5, mi sembra, lì dalla città degli affari, qua, che costano poco. E ho preso 3 che tutte scariche completamente, e già me le ha cambiate. Ma vedo un po' come sono queste batterie, sono di quelle batterie ordinarie, mi. Infatti è quello il problema, alle volte anche nel negozio, chissà quanto tempo ce l'hanno loro, e tu vai a prendere convinto che sono nuove, e invece magari loro ce l'hanno un sacco di tempo e hanno cominciato a scaricarsi anche prima che le vendessero, capito? Succede anche quello. Infatti. A me a scaricarsi così in fretta no, ancora a me già me sono capitate, però adesso sono tutto a posto, tranquillo. Invece grazie a noi è capitato, vero? Grazie. Quella dell'MP4, sì, infatti da Grande Villaggio è la terza batteria che ho messo io qua, ma magari la già carica dall'universo, non sa cantarne per la via, che sa batteria appiccata. Ah, infatti adesso me ne devo comprare un'altra discorta per l'MP4. Oltre a si carica già chi non l'ha più, l'altra ce l'avevo buttata perché la scarica, me ne devo comprare una. Ehi, quella è dura, quella dice che sono batterie buone, le ho provate ma si scaricavano ugualmente, mentre che invece queste qua ho visto che sono saccate il tempo e ancora sono buone. Per cui evidentemente sono batterie magari fatte da poco e durano parecchio, mentre invece quelle che sono scaricate che fatte magari erano di quelle magari fatte 7-8 anni fa, così è giusto. È possibilissimo, è già lo grido, certo, perché no? Vabbè, alle volte, adesso io questa che le ho comprate da Bricomen, tu sai questo negozio, non lo so il materiale che hanno, quanto possono essere affidabili, comunque io le ho comprate, ho visto che erano accettabili come prezzo, avevo pagato 5 euro l'una, le avevo pagate, però me le ricarico sempre, capito? Se le metto invece nell'MP4 mi dura poco, se mi rimetti con il volume del microfono sempre aperto, no, diciamo, se non lo abbasso del tutto mi dura poco la batteria, mentre invece se l'abbasso allora già mi dura abbastanza, però io me ne dimentico sempre di abbassare il volume, anche quando spengo si che rimane aperto, rimane, no? Evidentemente l'MP4 ha quel difetto che consuma un pochino le batterie, non lo so Giomaria, è probabile anche che il circuito abbia un minimo di assorbimento, capito? Senz'altro sarà così. Ecco, quanto ci viene a caricare una batteria a 9 volt, se uno lo carica a batteria? Quanto più o meno la puoi lasciare attaccata? Ah, io di solito quando la metto a caricare, siccome ne ho diverse, allora la lascio mezza giornata e basta e va bene, poi la provo col tester, mi raggiunge 9 volt, anzi 9 più 2 mi dà anche, se che è abbondante, 9 volt abbondante, allora vedo che carica e basta, la metto da parte, capito? O la metto nel microfono, tutto lì. Però io penso che anche in meno tempo si carica lo stesso, eh. Ma ma io pure penso che sia così. Grazie, tu quanto quanto la lasci caricando? Come stesso ha detto Giulio, anche io una mattinata le lascio, oppure il pomeriggio se mi sto guardando il televisore le attacco 2:30 o 3 e mi rivolgo alle 7:30 all'otto e sono cariche. E io le ho comprato un altro pacchetto l'altro giorno. Le uso così a ricambio con i bucuchigi e le pongo a caricare e uso quelle là. Adesso ieri o a partire quando sono qui me ne ho preso 4 alcaline ultra alcaline e poi le devo provare a filo, però 4 filo sono pacchettate, la vedendo se c'è la data di scadenza, ma non ce n'è. Emilio, best, before, il 10-2007 scadono, c'è anche la scadenza, cioè 2017. Vedi, c'è la scadenza, ma è tre cose adesso, la scadenza c'è. Ecco, io prima le usavo, adesso non le sto più usando, quando si carabina ce la butto. E tanto mi ce l'ho di pronto, e poi se non me la prendo e gliela piace. Ma è da parecchio che non cambio mattini in questi microfoni. Prendo quella di campagna, è un bel tempo, per 3 anni che c'è la batteria. Non si è mai scaricata, è riattaccata. Certo che lo stecco, c'è l'interruttore, no, l'M600. Lo puoi accendere e puoi spegnere. Per cui evidentemente i contatti sono, lo distacca completamente, non la batteria non si scarica. E se non sarebbe scaricato dopo 3 anni, o no? Penso proprio di sì, io penso che sia così, non lo so. Adesso ho cambiato baracchino, com'è adesso questa la radio? Questo è il Tokai 5024, il vecchissimo Tokai, quello di 40 anni fa. Ma va bene, con metà anche questa, bella incisiva, è più forte anche questa, come radio rimane più forte, è chiaro ugualmente giù, va benissimo, a Foglia, e così come la vuoi la radio, più bene di così, come così, grazie a... Papà, sta dicendo bene lo stesso, però queste che ho preso non sono ricaricabili, però sono ultra alcaline, 1,5 volts, classe AA, scappare i limoni, c'è anche il tagliando di controllo qua, sembrano buone, poi vanno bene anche alla cinepresa, alla macchina fotografica, alla radio con i CD, con i cuffi, alle macchinette, già devi lasciare buoni. Quelle da 1,5? Eia! Ah no, io ce l'ho 19 volte. No, le mie cose sono 19 volte. E qua ce l'ho 1, 2, 3, 4, ce ne sono 5. E 2 in magazzino, sì, 7. E per cui sono tutti a 9 volte. Io le ho sempre prese così, 1,5 volte. Tutti sempre così le vado operate. Durano di più, no, allora possono, io sempre questo tipo preso, solo queste non sono ricaricabili, la giubilati a chi l'hanno in offerta. A te che microfono stai usando adesso? Io? Ehi! L'Astral! Non stai usando l'MP4 allora, no? L'MP4 ce l'ho collegato lo Zodiac alla camera, ecco, stamattina c'avevo quello, quando stavo modulando con Antonello, ma stasera già sei su Linux. Vabbè, ma io mi riferivo al microfono, capito? Perché MP4 già è a 9 volte la batteria, e invece questo, che è quello che stai usando adesso, invece di quello manuale, e c'ha la batteria a filo. Ehi, no, quello là è diverso, è qui si sta quadrata. Quella a 9 volte, quelle sono a 9 volte. Le macchine infatti, il parchiere infatti, è strano, io pensavo che invece stavi usando le 5-4, capito? Perché non c'è un altro microfono. Ok, avanti giù. Ok, Giovanni, sì, effettivo. Quella 9 volte i microfoni sono i due, dai, quelli con la batteria a 9 volte. Quelli altri sono, praticamente sono tutti i microfoni da palmo, manuali. Invece quelli da 9 quasi tutti sono da tavolo, è diverso il discorso, oh, grazie, ha capito, sicuramente, naturalmente più, però quando da 1,5 di solito sono microfoni che hanno, ecco, non no, quello da tavolo che hanno per borse, c'è quella quadrata, però da quando ce l'ho io questo microfono, ma aveva venduto Natalino, no, ce l'avrò un 4-5 anni, e tutto l'ho cambiata 3 volte la batteria, e boh, guarda, però di scorta me la voglio prendere. Cioè, lei già aveva di scorta, certo, tutte anche quelle del telecomando, che ne abbiamo qui, i telecomandi ne abbiamo una decina, lì come minimo, perché tre televisori, pensa, solo 5 televisori ci sono qua in questa casa, infatti, sempre attivi. E poi ci sono i DVD, i registratori, tutte queste cose qua, e tutti col telecomando, capito? E soprattutto non meno di 10 telecomandi, sicché tutte le batterie io le ho prese e ricaricavo, in modo che se avevo un patrimonio ogni poco tempo, perché incominci tu a cambiare batterie, un caricatore, lo metto sotto, lo ricarico e via, no? E così la batteria è sempre quella, capito, Lucrezia? Infatti anche io sto facendo così, solo queste le ho prese perché erano in offerta, capito? Però ecco, quando le compro proprio che vado a comprarle, le compro ricaricabili, perché pure qua ho 4 televisori già francesi, DVD, e telecomandi anche dei condizionatori d'aria, e la finestra le comandi, no, che buia, ma... certo, in tutte le case ormai ognuno ha più apparecchiature, e tutte a forza di telecomando, e allora le batterie è consigliabile. Sì, è vero che quando le compri più, ma fa tempo, perché anziché stare lì a ricomprarle perché si sono scaricate, le ricomprare dura, cioè, costano abbastanza, tu mi dirai, già durano. Se consumersi i lampi, e costano abbastanza anche quelle, vanno ricaricabili, quando si scarica lo attacchi e lo ricarichi, ce l'hai sempre pronte, in qualsiasi momento che ti servono, ti ritrovi con le batterie sempre pronte, capito? È così, Giovanni. Ma infatti, io ho il caricabatterie, ne ho 2 o 3 di caricabatterie, e carica sia l'usino a quella 9 volte, capito? E le carica 4 di quelle cile e 2 di quelli di quella 9 volte, e tutti quelli ce li ho, per cui, ma non attacco mai perché sto usando quelli da buttare, sto usando. E i televisori boh, mi sembra che non abbia mai cambiati, fino a che buono ve ne so, 1, 2, 3, 4 televisori, ti puoi mangiare, però questi televisori hanno la batteria a stilo, quelle piccole, sono quelle originali, e quella di cucina io ce l'ho parecchi anni adesso, e non l'ho mai cambiata, non ho mai cambiato le batterie, boh, e ancora sta funzionando giù, sarà 4 o 5 anni, non più, non lo è. Il servizio di cucina, quanti anni ce l'abbiamo? Tutto giù. 5 anni più. 5 anni più, non sono mai scaricati. Penso che sia di quelli che si buttano, capito? E gli altri la stessa cosa. Sono batterie originali, capito ancora, cioè io, non li ho mai cambiate. Magari a DVD sì, A quello sì, e per cui magari la accoggio anche la telecamera sul il telecomando, ma non l'ha mai cambiato, mai. Infatti no, conviene così, conviene avere la caricata e basta, io ripeto, sì, ne hai comprati al tuo momento, costano di più, la verità, perché costano quelle ricaricabili, però poi ti durano anni e risparmi sempre, risparmi. Tanto più che quando magari ti si scarica, se usi quelle normali, poi non le hai e devi uscire, invece in questo modo sono ricaricabili, sai che hai il caricatore, lo metti sotto, li carichi in brevissimo tempo e via, e ce li hai di nuovo, efficienti. Io l'ho pensata così, capito? No, se no come si chiama? No, già va bene così, dai. Per me io la penso in questo modo, lo intendo grazie. Ehi, mano, io che le compro, qua se le ho prese perché ho visto che erano in offerta la giubilata, ma ripizio va. Le adopero per le sveglie, la svegliata in cucina, l'orologio che c'ho in salone, no, giù in occa piccato, e le adopero per questo. Ci servono sempre, già lo so pezzi, va. Adesso per dire, qua adesso sto modulando con quella che ho ricaricato. Anche sul telefonino di casa, nel senso, c'ho quel stilo. E quelli per l'altro, quelli l'ho cambiato, mi sembra un paio di volte l'ho cambiato, quelli telefonini, a pensare che quelli si dovrebbero caricare direttamente, perché quando si finisce di usarlo lo mette dentro la lampada e rimane in carica, no giù. Penso di sì, non so come è fatto il circuito, è possibile che possa essere così, capito Giovanni? Adesso ho cambiato ancora baracchino, mi sa come lo vendi tutti, mi sa cosa è l'altro che non ne c'erano mai, che uso sempre il solito, lo uso, questo qui dovrebbe essere il migliore di tutti, anche come segnale dovrebbe essere il più forte, penso, almeno il segnale, il radio non lo so, però di cosa, di segnale, sicuramente questo è il più forte, vai Giovanni. La radio è pulita, bella, fortissima, va bene come... Ma il segnale non l'ho notato giù, a dire la verità, non l'ho notato. Però penso che sia super giusto così, già che è un po' agevola parecchio questo smitter, io sto usando l'S9, agevolato mentre su Cobra e invece più avaro come smitter. Quanto ti arriva a te, grazie adesso io Giulio? Passaggio 1, 2, 3, prova, attenzione Graziano, lascia la portante, ecco, vai 9:20, picchi positivi, radio 5, pulitissima. Vedi, allora, a me già mi arriva 9:27, giù, 9:27. Vedi un po', ma capita, secondo lo smitto della fake, questa agevola troppo, secondo me. Mentre il Cobra, adesso accendo il Cobra, vedo un po' quanto arrivi, vai. Ok, d'accordo, vabbè, da uno smitto all'altro c'è sempre differenza, sono sempre baracchini, è logico, meglio avere come sono stati regolati, vabbè, comunque anche tu mi arrivi a quel segnale, no? Niente di particolare, va benissimo, alla grande, vai Graziano. Giulio, dipende anche dall'antenna, l'antenna Giammaria è tutta in fria, la mia vi manca il radiale e dunque dipende anche da lì la ricezione, capito? La mia è pur camari. Grazie, un po' tutto, perché si sa, è normale, no? Perché anche la mia antenna ne mancano 8 di radiali, ti puoi immaginare. Adesso quando rimetto quell'altra nuova, vediamo se migliora o se peggiora, se non peggiora meglio mai, e se non migliora meglio mai, tu che se ne frega. Basta che mi sentano, va bene così lo stesso, figurati. Questa, ripeto, ne dovrebbe avere 16 radiali, ma 8 ne sono caduti e dunque adesso è invalida, ripeto, l'antenna è invalida questa, ma con meno dipende anche dall'antenna, dipende anche dall'apparato, chi fa parte della guerra, Ducati, e sono contento che funziona sempre. Aspetta che ti passo una signorina. Buonasera Giulio. Ciao Rosy, salutoni, ben ascoltata. Sapeggio Marie, l'altro grasso fa di pulire, l'impennatoia è valida. Chi fa di là per validare il tutto Giulio? Addirittura, no credo, dai. Quando mai non fa parlare ma con un momento di rifunzionamento? Niente, non è stessa. Oh Giulio, dalla Pinzin, chi si è valida di tutto, come si è valida? La cosa è valida come un patrone. Niente. Allora bisogna anche di sala. Che sei poco simpatica lui. Mi fai vedere come ci va tutti storie. Beh, grazie. Allora difendi, dimmi, io non so cosa dici. Allora, parla la di Matisse la stati da. Come ti piglio chissà se ti vado a letto e mi cocco in salone, così ci arriva a cantare mattana. E per cosa? Papponesioni? Dio in salone, papponesioni? A chi dici che sto così per il tucchino a destra a sinistra? E lui è così, così un po' come ha detto, lui con le mani lunghe. Allora, Giulio, a secca, non vengo in più la poltrona, è in camera da letto, ed è il calore, allora anche sto governo, fai l'idea tu. Ah, tu fai serio, grazie, ma insomma, ti fai bene la sieta, moglie, e ti fai un po' di mano. Allora, così è vero, Giamari, che vivo a Giulio, casa, a grazie, non faranno. È impossibile, sempre a lei dove tu è, sempre a lei dove è la parte bassa, dalla rufa, daga, e tu la sai cosa fai, mi dai la polvista, e mi rincorci, la pensa, no Giulio? Ho preso un trucchetto! Un trucchetto taglia il raso! Se no la moglietta quando devo andare in bagno, quante fasi? Allora, beh, già lo credo, io, non farà neanche la stessa come io, che non fa mai l'idea, quando la fa la pressione, e se sai ora si pone la testa a Giulio? Cocca di rupura, ma ti cocca fuori in Roma, la sera per sentita. Grazie, Giomari pure a te, glielo dicendo, dai, dici che vuoi, mi ha preso la poltrona, mi mando un salone, e si trova un camera a letto, quando va a calare, grazie, si vede che sia accoppiato, Giomari. Hai visto giù a... certo con la temperatura Graziano è giù. Tu la cosa fai così, ti muovi un ghiaccio vicino e tu gli hai dato ti muovi un po' di ghiaccio, ma così giù là. Ora sai che Giomari la saluti, me la vedo nel suo programma Real Time, che fa di vedere un po' di cose, ne ha fatto vedere che il suo negro va roba cazzo la via a Paolo, di chi il suo negro di bambole gonfiabili ricaricabili, di la via bionda, ruia, la cava la libera, la rete ricaricava. Cazzo la passona Irane, tutti donne no, parlavano, si muovivano, cazzo tu tutta abbracciata, era con la malinata la goccia di chi sa bubbia, un quinto era, a chi le erano intervistenti. Tu devi abbattare la trasmissione, la 7D, Lumassi a Nutti, a Londres e Disi, come c'è la trasmissione che si chiama La Maleducazione, si chiama questa trasmissione, e fa vedere di tutti quanti queste cose, ma tu ne devi vedere tante cose, Disi, non è più un tanto di coraggio e di coso, Disi di cose sue, personali, eccetera, eccetera. Tu prova a seguire questa trasmissione, tu chiamassi a Nutti, a Londres e Disi di tutti, vai a vedere che vuoi dare lì veramente, si chiama l'ho già appena detto, la trasmissione intitolata, la maleducazione, la trasmissione intitolata, compreso, a Londres e Disi di Matti, Dugna Matti. Che risparmiano, fatemi vedere, o sepolti pipi, o la bomba di cani in casa sua, bomba di gatti, o la mania di cuppa l'ombra di sopra la mobile, o chi ti dica la mania di cuppa la giornale di tutti i caritai. È un programma, ogni notte ce n'è uno, va? Ok, oggi a sale segnare tu con te invece su Cobra 9 dunque 6 e 7 9 e 7 sì qua, mentre invece se no mi agevola di più, invece questo magari a fare buco e peccato, grazie appena un GG appena più forte di te, forte di me. No, tu sei appena, perché appena più forte sei di segnale, capito? Perché tu sei più vicino e Giulio invece è più lontano, capito? Però sta arrivando bene, lo spinter mio e lo servono, noi lo seguo, uno agevola e l'altro è troppo misero, capito? No, a me mi arriva bene, chiaro, forte, proprio bello squillante, per avere, ripeto, il baracchino bubbiccio, e la tela come te, lo senza bomboletta, riprendi giù. Sì, ok, da uno svizzero all'altro c'è sempre differenza, lo so, quello sicuramente è molto avaro, il Cobra è sicuramente molto avaro, il Magno è un baracchino un pochino più moderno e penso che sia un più rispettabile, dai, come più affidabile come segnale, non lo so, sicuramente così. 9 lui chi è che non arriva? 9 arrivano tutti praticamente. Qui da me addirittura mi arrivano da Porta Torres 9, tipo so Sandro, tante volte anche Gianluca, mentre invece come si dice, Giampaolo mi arriva basso, quello lo sento basso anche nel radio, anzi alle volte non capisco nemmeno quello che dice. Eugenio mi arriva bene lo stesso, tutti bene, ecco, anche da lontano, ad esempio Barracuda, la Ossi mi arriva a livello di segnali di Sassari, quando attacca poco quel 131, il BV 131 che ha, mi arriva roba di 9.15, una cosa del genere, ti puoi immaginare, sono segnaloni forti veramente, oggi così, vabbè comunque, non è importante, è interessante che arrivi la radio, poi per il resto che se ne frega. Infatti è così, ma già per un momento, più o meno i segnali si sanno già, poi quello che conta è la radio, il segnale variano sempre. Bene, comunque approfitto, dai, chiudo, sono già le 8:15, passate, per cui ne approfitto, dai. Grazie alla chiacchierata Giulio, mi ha fatto il piacere, ti ho risentito. Eventualmente a domani se coincide. Ciao anche a Graziano, Rosy che in ascolto, e buon proseguimento in serata a tutti e due. Vai Graziano, ascolto per il finale di chiudo, dai. Ciao. Ciao, buon proseguimento di serata, salutone in casa. Ok, e a se io chiuso Giulio, che adesso mi va l'insulina e poi sta già portando la caraviglia elettrica ed è già con i bricci, non vedi l'ora di mania. Ciao Giulio, a domani. Buon proseguimento di serata, anche a te, salutoni in casa, riprendete la serata. Ok, ciao Gio Maria, allora, grazie anche a te per il consiglio, a risentirci a domani eventualmente, ciao, grazie anche a te per il consiglio e salutoni anche a Rusi, ci sentiamo eventualmente domani, ciao, grazie ancora, ciao. Ciao Giulio, ciao Gio Maria, alle prossime, dormite bene, salve. Grazie Ru, grazie, ciao, accettato, ricambiato, ciao Giulio. Ciao Giovanni, ciao. Questo è l'eco comunque, questa macchina che stiamo usando adesso ha un pochino di eco. E infatti, vanno bene giù, vanno tutte e tre bene, vanno bene, questa non ti piace la radio? Bellissima, chiara, bella, con la puntina di eco anzi ci sta anche bene. Questo è in copra, 200 XL, l'801 l'avevo dato, con la base, no, era troppo grosso, non mi piaceva, e mi sono lasciato questo, il 200 XL, è bellissimo questo, tutto illuminato, è una meraviglia. Vanno bene, ciao, grazie ancora per questo, buon proseguimento in serata, ciao. Ok, ciao, c'ho anche un copra comunque, un copra alla base, quello grande, va bene, ciao, ci sentiamo, ciao, ciao.